questo è lo zoo, questo è lo zoo, un programma di cretini che più non si può. Questo è lo zoo, questo è lo zoo, un programma di cretini che più non si può. Tua madre is a DJ, my brother is a DJ, my girlfriend is a DJ. My gardener is a DJ, my driver is a DJ, my pool guy is a DJ. E se poi te ne penti? My toy is a DJ, Capatonda is a DJ, Ivo Avido is a DJ, is Ero Paradina a DJ, Spiny Jigma is a DJ, Daniele is a DJ, Galli Giuri is a DJ, is Leone di Lernia a DJ? Lo so di 105, lo so di 105, lo so di 105. Sono Ame Ammiammo. E beh?